mamma. Mamma, quel vino è caroco. Certo, oggi troppi bicchier ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che maledito dato. E poi, mamma, sentite, io non ho tornati, sì, io non ho tornati. Ma suggerito il vino.